Emmett, do you think we'll ever be able to travel to the moon the way we travel across the country on trains? Definitely. Although not for another 84 years and not on trains. We'll have space vehicles, capsules sent aloft, rockets, devices that create giant explosions. Explosions so powerful that they They break the pull of the Earth's gravity and send the projectile through outer space. Emmett, I read that book too. You're quoting Jules Verne, From the Earth to the Moon. You've read Jules Verne. I adore Jules Verne. So do I. 20,000 Leagues Under the Sea, my absolute favorite. The first time I read that when I was a little boy, why I wanted to meet Captain Nemo. Please, Emmett, you couldn't have read that when you were a little boy. It was only first published 10 years ago. Oh, yes. Well, I meant it made me feel like a boy. Tell me what the facts be. They be my past me. That's the ass of it. Subtract. We'll be right back. questo è un periodo dell'anno che non vede tradizionalmente uscite discografiche, non vede novità discografiche, quindi non vi sentirete annunciare dischi usciti il 21 di dicembre o il 1 di gennaio, ma bisogna aspettare più o meno la prima decina di gennaio per avere nuove uscite. Quindi se vado a pescare dei brani nuovi, sono brani o che devono ancora uscire, dischi che devono ancora uscire, oppure che sono usciti ormai da qualche giorno, così come per il disco che stiamo per ascoltarci. Però prima, come faccio sempre, devo ricordarvi quanto vi siete già ascoltati. Prima Moon and Moon, che ci tengono compagnia di tanto in tanto dalla prima trasmissione di questa nuova stagione. Act 2, Hands of the Man è il titolo del pezzo che ci siamo ascoltati, e poi White Denim dal Texas, è un progetto solista, infatti White Denim è lo pseudonimo di Bob Terry Mallard, ce lo siamo appena ascoltato con Mess Your Hair Up. Si rimane negli Stati Uniti, ci si trasferisce a New York City per parlare del disco uscito il 3 di dicembre sull'etichetta Trap Recordings per il duo di nome Ursula Points. Light Up Galaxy è il titolo dell'album, dal quale io vado ad estrarre Soft Noon. My heart. Ricordo benissimo come fu che cessai di dipingere. Una sera, dopo essere stato 8 ore di seguito nel mio studio, quando dipingevo per 5-10 minuti e quando, gettandomi sul divano e restandoci disteso con gli occhi al soffitto, 1 o 2 ore. Tutto ad un tratto, come per un'ispirazione finalmente autentica dopo tanti fiacchi conati. Schiacciai l'ultima sigaretta nel portacenere colmo di mozziconi spenti, spiccai un salto felino dalla poltrona nella quale mi ero accasciato, afferrai un coltellino radente di cui mi servivo qualche volta per raschiare i colori e, a colpi ripetuti, trinciai la tela che stavo dipingendo e non fui contento finché non l'ebbi ridotta a brandelli. Poi tolsi da un angolo una tela pulita della stessa grandezza, gettai via la tela lacerata e misi quella nuova sul cavalletto. Subito dopo, però, mi accorsi che tutta la mia energia, come dire creatrice, si era completamente scaricata in quel furioso e, in fondo, razionale gesto di distruzione. Questo era l'incipit della noia di Alberto Moravia. Pochi minuti dalla chiusura della prima parte di Eclettica di quest'oggi, voglio ricordarvi l'esistenza della lista nera, della playlist di Eclettica direttamente nella vostra casella di posta, nel caso siate iscritti alla lista nera. Per esserlo, basta mandare un mail a me, giulio@radiorockfm.com. Ci siamo appena ascoltati un'anticipazione di quello che sarà il nuovo The Magnetic Fields, Three Way è il titolo, per passare invece a quello che è il nuovo album intitolato Lucky, da parte dei Nada Surf, formazione newyorkese che ho sempre ammirato per la capacità di creare grandi melodie. Questa è See These Bones. Everyone's right and no one is sorry. That's the start and the end of the story. From the sharks and the jets to the call in the morning.